tutte e a tutti, noi siamo in repressione e facciamo schifo. Vedere, non vedere, decide di combattere o non di combattere, i padroni, i ricchi, continueranno a combattere questa lotta di classe. E quindi noi siamo in costante conflitto. La prossima canzone è nata all'indomani di uno sgombero pesantissimo, lo sgombero che c'è stato a Bologna dell'ex Telecom, in una situazione paradossale, simile a quella che vediamo nei telegiornali in Palestina e in vari altri luoghi del mondo, dove la guerra non ha filtri e dove si vede tutta la sua crudeltà. È inutile nascondere questa cosa qui. Ecco, noi all'indomani dello sgombero dell'ex Telecom a Bologna, che dopo qualche anno di 300 persone che se ne è sbattuto il cazzo delle etnie, della religione, della provenienza, è riuscita ad unire quello che invece il sistema continua a dividere volutamente. Ecco, a tutte le occupazioni abitative, a chi resiste, a chi viene denunciato, a chi prende i punti via, a tutti i compagni e le compagne che continuano a resistere, che non vogliono pagare il mega affitto, che vogliono vivere sotto un tetto, a tutte le persone in difficoltà che reagiscono, noi diciamo, senza chiedere pagamento. Thank you. infatti rumore, giustamente. E niente, la prossima canzone, il rumore, quello ragazzi, la vogliamo dedicare a quella gente che un po' di anni fa ha pagato con 30, 35, 5 il gatto. I compagni che proletari, anche in Puglia, sono saltato il cielo, hanno tentato di rivoluzionare questo sistema. Riuscendoci, non riuscendoci. La strada è battuta, sarà dove ritrovare. Come nel contratto. Yeah. chiama tutti i fast scorer e le fast scorer presenti in sala. La Rosfest l'abbiamo dedicata a Emanuele De Cesare, ma lui era a parlare altrove, quindi la dedichiamo anche in sala questa volta. Dov'è? Dobbiamo ricordarci che esiste un sistema che ci opprime e questo sistema è fatto di persone che ricoprono dei ruoli, magistrati. Allora questa canzone la dedichiamo a tutti i magistrati e i magistrati che sono là fuori e adesso dormono nelle loro case, se dormono, e i magistrati che abbiamo nella nostra testa, perché il primo giustizialismo da cui dobbiamo liberarci è quello delle nostre teste. voglio dedicare a un compagno in particolare, perché io ho questa teoria che ho sviluppato nel corso dei miei 33 anni. Io penso che nel ventre della bestia non dobbiamo fare troppe distinzioni tra compagni che praticano l'anarchia, tra compagni che sono legati al comunismo e tra compagni che si tengono dove. Sono compagni nel ventre della bestia, in caccia. La solidarietà va estesa. La solidarietà è un arco, diciamo. E io oggi voglio dedicare, come tutte le volte, da quando è stato incarcerato, da quando facciamo questa canzone, a un compagno che è nel mio cuore. Si chiama Davide Rossi ed è adesso nel carcere di Torino. A pagare per il 15 ottobre in cui non era solo. E io voglio dire che in carcere manca tutto. Manca veramente tutto. Il carcere italiano è un livello medievale. Il problema grave è che non ce lo dobbiamo dimenticare, quindi anche mandare una cartolina, anche mandare dei francobolli, perché i francobolli costano e non sono facili da reperire in carcere. È un modo per far sentire più vicine queste persone e non solo, perché nel momento in cui i compagni dall'interno si sentono vicini, noi li sentiamo vicini, il sistema sta per me. Contro ogni galera. Quindi se volete cantate. La prossima canzone invece la dedichiamo a un compagno che vive a Bologna, è vivo e lotta con noi per fortuna, e si chiama Santo Don Nicola. La sua figura attraversa tutto il Novecento, immigrato terrone della Fiat degli Anelli, poi del Partito Comunista. E il Partito Comunista esce quando... Tipo Juventus, è vero. Allora, questo compagno si è ribellato al PC, si è ribellato facendo la banda Cavallero, di cui tutti abbiamo visto il bandito a Milano, un film orribile, però spiega quello che è successo. Poi entra in carcere nel 68 e da lì decide che questo carcere va rivoluzionato. Allora noi sappiamo benissimo, cosa sono in app, perché ce l'abbiamo qui a Firenze, no? Conosciamo benissimo le Murate, conosciamo benissimo i fratelli Abatangelo, conosciamo tutta la storia di Napp fiorentino. Non c'è bisogno di raccontare quelli che sono stati i numeri a quanti proletari, di quello che è stata la rivoluzione del carcere, dell'avanguardia, Partito Zichitella e così via. Ecco, noi abbiamo preso un collage di poesie, perché poi Santo è uscito dal carcere, ha sempre continuato a scrivere poesie, tra l'altro bellissime, io odio la poesia lunga, però a parere mio personale. E quindi è accaduto questo. Noi abbiamo preso tutte le sue poesie dicendogli senti Santo lo possiamo fare, lui ha detto fatelo, la vostra musica non piace, però così. Poi l'ha sentita la canzone e gli è piaciuta. Ha detto no, dai, carino, si può andare. E quindi la prossima canzone si chiama 20 infranti. E la dedichiamo a Santo e non per me. Yeah! un ritornello fa repressione, repressione, quindi è facile da cantare, lo volete cantare. Quindi abbraccio le pressioni. Ma facciamo così, facciamo. Ma una cover di Vasco, no? L'uso della libertà minaccia da tutte le parti, poteri tradizionali, l'autorità costituita. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante parole. Noi siamo a guardia della legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorente, la città malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere la repressione del nostro vaccino, la repressione è cinta! Grazie a tutti.